vostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Eccoci qua anche stamattina come due soldatini sul campo di battaglia, anche se la giornata di festa, noi ci siamo. Beh, presenti, cara Deborah, buongiorno, buongiorno a tutti l'appello. Gli ascoltatori, perché è vero, a Milano è la festa del patrono, Sant'Ambrogio, la prima della Scala. Sei stato invitato? Non mi hanno cercato. Non vuoi andare, capisco, a vedere forse c'è stato un problema con la posta, la posta elettronica. Non avremo invece problemi oggi con la posta o tutti i vari collegamenti che potete sempre stabilire con noi anche nella lieta festività del santo patrono locale. Anche perché non potevamo mancare, il giovedì c'è l'appuntamento fisso con Investire Informati, per cui lo manteniamo per i nostri ascoltatori affezionati a questa rubrica di questa giornata della settimana. Allora, noi questa mattina, se ho capito bene, Deborah, dobbiamo parlare, perché poi io il giovedì arrivo sempre con un po' di apprensione. Fai bene a partire con questo presupposto. Peraltro, mi stavo chiedendo stamattina, scusami se faccio questo inciso, ma tu li sai a memoria tutti gli emendamenti della legge di bilancio? No, tutti ancora no. Perché sentivo che sono qualche migliaio. Sì, tutti ancora non li so, però li sto leggendo uno a uno, rigo rigo. Vabbè, quindi, ti interrogo domattina, allora. No, ho bisogno anche... Facciamo lunedì, facciamo un'interrogazione tutto lunedì. Tutto il weekend lungo bisogno di soffermarti. Invece ho bisogno di soffermarmi molto questa mattina, ma invito tutti gli ascoltatori a farlo, sulle novità tecnologiche che stanno coinvolgendo il nostro denaro, i nostri risparmi, la modalità in cui paghiamo, investiamo il denaro, eccetera, eccetera. Perché? Allora, per due motivi, perché ne parliamo oggi? Perché è giovedì il giorno di Investire Informati, sì, come già hai ricordato, Deborah, ma perché poi oggi, insieme al Sole 24 Ore in edicola, trovate anche questa seconda uscita del Nuovo Risparmio, che è la collana di fascicoli, sono dei volumetti di una sessantina di pagine dedicati ai vari aspetti appunto dell'investimento. È una operazione, lo possiamo anche dire con un, così, senza false modestie, di alfabetizzazione finanziaria che portiamo avanti con il Sole 24 Ore tutti i giovedì. Oggi è proprio dedicato a denaro e tecnologia. E mai guida fu più azzeccata, data la giornata, dell'ennesimo nuovo record che in realtà stiamo inseguendo, ma sembra senza soluzione di continuità, per le quotazioni del famigerato Bitcoin. Ecco, poi se io riuscissi a capire questa mattina bene che roba è il Bitcoin, avreste fatto un'operazione meritoria. Allora, stamattina chiederemo tutto ai nostri esperti. Intanto Pierangelo Soldavini nel Sole 24 Ore, che ne scrive per questa guida e anzi ci aggiorna live sulla quotazione in questo momento della criptovaluta. Buongiorno a tutti. Quando è iniziato a parlare il Bitcoin valeva $14,700. Adesso è 14,805. Ma vada, era 13,000 ieri sera. Cioè, in 4 minuti ha preso $150 di valore. Sì, sì, sì. Ecco. Ha una volatilità che, come dire, non è proprio per tutti gli investitori. No, insomma. Infatti. E invece purtroppo ci si stanno avvicinando anche, come dire, piccoli risparmiatori che hanno ben poche basi e ben poca cognizione di come funzioni questo mondo. Ma ne parleremo. Però per gli amici che ci seguono su Facebook, perché sì, stamattina siamo live, anche se Radina non c'è, ma ha detto che da lontano in remoto ci segue. Oh, ci Dina manda, Cicerella, ma allora salutiamola caramente. Esatto, stanno vedendo che c'è anche un altro ospite che noi salutiamo, Antonio Avalle, direttore commerciale di una SGR Nordea. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Ma soprattutto stamattina non l'abbiamo invitato in quanto esperto di Bitcoin, ecco qua Mauro fa il suo dovere, ma perché si sta occupando da qualche tempo a questa parte di un tema che in questo momento è al centro del dibattito finanziario, quello dell'educazione finanziaria. Ci ha portato, e noi dopo il domandone naturalmente lo regaleremo anche ai nostri ascoltatori, il suo piccolo manuale dell'investitore, si intitola Dr. Money e Mr. Fear, e quindi racconteremo anche come provi a fare questo percorso di educazione finanziaria con tutte le persone che incontri. In realtà poi lo racconteremo, questo libro è il frutto, infatti si sta divertendo Mauro, lo spazio. Non hai fatto la stessa cosa con la guida del Sole 24 Ore? No, ma te la mi divertivo perché lo faccio io. Quando uno dice educazione finanziaria subito, come dire, ci si scoraggia perché mamma, devo studiare. Allora, questo volume ha questo pregio appunto di essere molto visuale, utilizzo di immagini, fumetti. È tutto a fumetti, infatti. E quindi è aggredibile anche da me. posso fare un po' di self branding, come lo chiami tu. Ho scritto la prefazione di questo libro. La mia parte preferita è la modalità con cui mi hanno fumettata. Sono venuta molto più giovane di quanto non sembri. C'è anche il fumetto di Deborah Rosciani, se volete. È un altro dei motivi per leggere questo libro o cercare di vincerlo oggi con il nostro domandone. Benissimo, abbiamo fatto tutta la premessa. E allora ricordiamo i numeri a cui ci possono chiamare, inviare sms. Allora, per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Rosa è al suo posto anche oggi. Esatto, ormai Rogito l'ha fatto, l'Imo e la Tasi le pagherà. E allora grazie Rosa per essere presente anche in questa giornata di festa. SMS e WhatsApp invece 349 238 6666. Se proprio volete, abbiamo anche una casella di posta elettronica, 2 di denari, attenzione che è scritto a lettera, due di denari, @radio24.it. Ottimo, partiamo. Investire informati. Ecco, giunge voce, ci racconta Roberto a Trieste, che in Slovenia hanno hackerato una ditta che gestiva i bitcoin, rubando ai vari investitori qualcosa come 4.000 erotti bitcoin, quindi un bel numero di milioni di euro. Boh, chissà se è vero. Ti risulta, Pierando? Assolutamente vero, sì, è una notizia di oggi. Ovviamente queste cose immediatamente fanno il giro della Ma lo vedi come sono subito pronti su questi argomenti gli ascoltatori? Ma magari gli chiedi, spiegaci come funziona il rapporto fra il prezzo e il rendimento di un'obbligazione. Eccoci che lì è un po' più complicata la faccenda. Sulle basi che in realtà, sai, il bitcoin ha questa cosa affascinante, che il primo bitcoin, ma adesso qui chiedo conferma a Pierangelo, mi pare che ce ne siano voluti 10 per comprare una pizza. No, dunque, allora, quando è nato bitcoin, la prima quotazione è nata nel 2009, la prima quotazione è stata 10 mesi dopo, valeva cioè ci volevano 1300 erotti bitcoin per comprare un dollaro. Benissimo, quindi per comprare una pizza ce ne volevano molti di più, ecco, tipo 13.000 bitcoin. Nel 2010 c'è stato uno sviluppatore che, per dimostrare che bitcoin era una cosa reale, ha comprato 2 pizze con 10.000 bitcoin. Pagando, il pizzaiolo ha accettato. Ha accettato, ha preso 10.000 bitcoin, ecco, quel pizzaiolo lì probabilmente se li ha tenuti ha fatto l'affare della vita. Perché il pizzaiolo ha 10.000 bitcoin, quindi adesso valgono, ormai saremo a 14.000, intanto che stiamo parlando, 14.000 dollari per ogni bitcoin. No, erano già quasi 15.000, era 14.850. Sempre 14.800. Ho le vertigini. Perché nascono come strumento di pagamento? Pierangelo, tu lo racconti nella guida. Sì, nascono come strumento di pagamento, come valuta, si chiama criptovaluta, per cui è effettivamente una valuta che ha come scopo principale quello di strumento di scambio o anche di riserva. Evidentemente col passare degli anni non ha avuto tantissimo successo come valuta, più come strumento di riserva, tanto è vero che si parla di oro digitale. Certo. E effettivamente altro che copertura dell'inflazione, visto che siamo a inflazione praticamente zero e invece Bitcoin continua a Antonio, a valle, allora tu devi andare in giro a fare il roadshow, chiamiamolo così, del tuo libro, perché è stato appena pubblicato e stai già facendo un po' di pubblicazioni, appunto un po' di pubblicazioni, un po' di presentazioni per raccontare qual è lo spirito di questa tua iniziativa, e nel frattempo, al contempo, si esplode dibattito su questa bolla. Magari sarai anche tempestato di domande su questo argomento più che delle nozioni basilari di educazione finanziaria. Ma proprio ieri, durante un incontro, innanzitutto ringrazio Deborah e Mauro di essere qui, perché la sensibilità per il tema dell'educazione finanziaria non è per tutte le trasmissioni televisive, quindi è veramente quella più adatta alla mia missione. Non sono tante le richieste e le domande sul Bitcoin, perché la gente non ha ancora la percezione di quello che sta accadendo. È quasi generazionale, vedo che sono più giovani, la fascia un po' più esperta tecnologicamente, che vive questo movimento, perché fino adesso io sono ancora un bel po' scettico e soprattutto invito alla prudenza per questo tipo di situazione. Anzi, mi è venuto di dire una cosa: ci stiamo a volte chiedendo di cose così, tipo Bitcoin, ma spesso non ci chiediamo di quello che effettivamente può servire, cosa c'è dietro quello che può servire. Mm-hmm. Ci facciamo tanti pensieri su una situazione come Bitcoin, quando poi magari il mondo degli investimenti, anche di soluzioni reali, quelle un po' più vicine sulla terra per noi, sono ancora sconosciute. Il discorso dell'educazione finanziaria è qualcosa che sto vivendo attraverso la pubblicazione di questo piccolo libro, però ci sono dinamiche che restano ancora sconosciute. Soltanto un dato: il 20% della popolazione italiana conosce la consulenza. per fare soltanto una piccola, dare un cipino, oppure il prodotto finanziario più utilizzato in Italia, l'81% sceglie ancora i conti correnti. Esatto, che quindi, non è un prodotto finanziario, ecco, naturalmente, però siamo, questa confusione viene considerata uno strumento di investimento. Assolutamente, siamo ancora nell'area dei risparmiatori. L'Italia è un popolo di grandi risparmiatori, abbiamo una ricchezza che arriva a essere quasi di 9.000 miliardi di euro, ma siamo fermi sul breve periodo. Cioè, quello è risparmio, l'investimento è un'altra cosa. Infatti nel libro, attraverso due risparmiatori come il dottor Moni e Mr. Fear, ed in ognuno di noi c'è sempre questa figura spaventata di Mr. Fear, si cerca di creare un percorso di consapevolezza per trovare attraverso ostacoli, soprattutto emotivi, perché c'è tanta finanza comportamentale, arrivare poi a coronare i nostri protagonisti, soprattutto Mr. Fear, come investitori. È un percorso illustrato attraverso delle vignette di Guido Migliaro, che ha fatto un qualcosa di strepitoso. Veramente eccezionale. Cioè, dare strategie, parole, vedere le immagini alla fine del libro in maniera molto spontanea, è stato bello. Aggiungo che tutto è privo di interesse perché è devoluto. Assolutamente, infatti è devoluto in beneficenza l'intero ricavato in termini di proventi, e questo fa sì che la cosa esce indipendente, cruda, fresca, per poter essere anche pronti a vivere in pillole situazioni di educazione finanziaria, perché l'Italia ha bisogno di emancipazione. Esattamente, come ci dicono molte SOS indagini e ricerche. Siamo sempre... Sì, intanto io sto facendo un po' di mercato e faccio vedere anche la maglietta che Antonio ci ha portato, Dottor Mani e Mr. Fear, appunto la maglietta del libro, tutta bella verde, quasi verde come quella di Radio 24. Volevo proprio legarmi a quello che diceva adesso Antonio, perché il Bitcoin in un certo senso potrebbe essere preso a simbolo dell'approccio un po' sbagliato, perché possiamo usare questo aggettivo, che abbiamo a volte con gli investimenti. Cioè, perché c'è così tanto interesse? Perché vediamo che la sua valutazione cresce in modo vertiginoso. E allora, siccome spesso noi ci rivolgiamo ai gestori, alla banca, alle società del risparmio gestito, dicendo, beh, ma mi dica una cosa che mi fa guadagnare. Esatto. Quanto mi dai? Il famoso quanto mi dai, che spesso anche evochiamo qui in trasmissione a due di denari. Ebbene, il Bitcoin sembra un po' la summa di tutti questi difetti, da un certo punto di vista. E tu dicevi, no, è una cosa pericolosa in realtà. Non stiamo dicendo non che è tracciabile, una truffa, ma non è tracciabile, non ha un'autorità che è valutaria, che sta sopra, come potrebbe essere la BCE, una banca nazionale o qualcosa del genere. Il suo, ma qui guardo Pierangelo, chiamo in causa Pierangelo, è un controllo che funziona su un controllo diffuso, cioè funziona perché le transazioni sono regolate da una serie infinita di passaggi digitali. Questo è più o meno, sì, il funzionamento. Assolutamente. Io faccio sempre questo parallelo. Cioè, è come se di internet noi avessimo conosciuto un'applicazione, la mail. Ci avessero venduto la mail 10 anni fa, dicendo, 15 anni fa, dicendo, questo vi cambierà la vita. Dici, sì, la mail è comoda, ma c'era dietro un mondo, c'era internet. E abbiamo visto che c'è stata una bolla speculativa che ha portato a delle valutazioni. Io mi ricordo quando Tiscali valeva più della Fiat, no? Oppure Pets.com, che era un IPO fatta una settimana prima che scoppiasse tutto, e che valeva più della Ford. La settimana dopo gli azionisti sono trovati in mano carta straccia. Allora, sembrava che dovesse cambiare la vita. In effetti internet ci ha cambiato la vita. Allora, Bitcoin non è altro che un'applicazione, evidentemente molto scenografica, perché viste le performance finanziarie è diventata, diciamo, un self-marketing, perché appunto se l'altro giorno valeva 11.000, oggi vale quasi 15.000, è chiaro che tutti vorrebbero, rischiano, hanno paura di perdere il treno, e quindi c'è questa mania, soprattutto tra i giovani, i ragazzini facilmente acquistano e vendono Bitcoin e fanno trading su Bitcoin. Però dietro c'è un mondo che è una tecnologia di cui si parla poco, blockchain, che quella effettivamente potrebbe cambiare la vita, perché proprio il modello è quello di, come internet, cioè di una economia distribuita dove non c'è la necessità di un'autorità centrale. Bitcoin l'ha applicata alle monete senza banca centrale, ma ci sono delle applicazioni già che per esempio la utilizzano per l'energia. Quindi i piccoli produttori si mettono insieme attraverso una blockchain, scambiano l'energia prodotta e l'energia consumata e hanno la sicurezza di sapere quello che forniscono alla rete e quello che consumano. E questa è un'applicazione della blockchain, e questo le banche di Wall Street stanno investendo miliardi di dollari su questa tecnologia. Quindi nei prossimi anni sapremo, finora non c'è stata, non ci sono stati grossi risultati, però pian piano stiamo arrivando a questo. Quindi ecco, insomma, ecco, a parte diciamo queste derive che ci sembrano inspiegabili, in realtà c'è del buono, no, dietro a tutto questo fermento. Sì, e a queste novità. Volevo dire, usiamo blockchain non perché ci piace parlare in inglese, non c'è al momento una traduzione, sostanzialmente come dire una catena bloccata. No, una catena di blocchi. Una catena di blocchi, perché sta ad indicare appunto che le interazioni con questa catena, che poi sono quelle che servono a garantire la correttezza degli scambi che si verificano, appunto avvengono in tantissimi blocchi in tutto il mondo, sì, da parte di tutti gli utenti. Per usare un'immagine, è come se l'euro che io ho in tasca avesse scritto dentro tutti i possessori precedenti, per cui ogni singolo blocco ha tutte le firme di tutti i possessori precedenti, per cui è assolutamente sicuro, perché non può essere toccato. E poi dopo ci sono dei problemi di hacker, ma sono di altro genere. La blockchain è assolutamente sicura perché è coperta da crittografia, quindi è assolutamente sicura. A proposito di blocchi, Antonio Avalle, intanto noi dobbiamo considerare quelli degli italiani che invece sono un po' bloccati quando dovrebbero impegnarsi nella conoscenza degli strumenti finanziari su cui investono, magari nella chiacchierata con il consulente finanziario che li segue, e quali tendono a non spiegare molto spesso molto bene gli obiettivi finanziari di medio e lungo termine, quelli propri, quelli della propria famiglia. Quindi oltre a questi, quali sono quelli che ancora tu ritieni ricorrenti tra i risparmiatori italiani, visto che comunque ne incontri anche con la tua attività professionale? Infatti, sono innanzitutto emotivi, perché io credo che il più grande nemico degli investimenti siamo noi stessi. Questo è un dato assodato, lo ritroviamo anche nelle pagine di Tutela Finanziaria, è questo mal approccio. Prima si parlava anche attraverso Mauro di qual è l'approccio al Bitcoin. Mi fa ricordare un po' quello che è successo quando ci fu la bolla tecnologica, certo, no? Però siamo ancora in superficie di questi effetti. Questo, il timore c'è, il timore di vedere la scommessa, si andava in banca, scommetto sul titolo. Esatto, dopo il passaparola con il vicino di casa. Scommettere è sinonimo di gioco, quindi la vivere, non l'investimento, ma la speculazione. Ah, ma guarda che ancora si continua ad utilizzare senza grande preoccupazione, ecco, il concetto del giocare in borsa. L'altra sera una trasmissione televisiva molto nota hanno continuato a pronunciare questo termine in continuazione, ma con le banche oggi si gioca, cioè una confusione micidiale si fa. Ecco, non ci si arma abbastanza di informazioni adeguate, perché resta la scommessa, il gioco, l'azzardo, perché siamo un popolo di giocatori principalmente, quando i soldi sono una cosa seria. Risparmio, attrezzarsi con un buon consulente, perché la qualità da individuare è importante. Innanzitutto risparmiare, perché l'altro parametro che a livello generazionale diventerà più difficile da accantonare, e trovare naturalmente quella soluzione anche emotiva che ci permetta di vivere l'investimento con distacco. Ecco, un po' diceva Buffett, io compro un'azione oggi ma potrei rivenderla tra 5 anni, perché sto facendo la cosa giusta e ci credo. Certo. E per me le borse possono anche chiudere intanto. Quindi avere un approccio un po' più strategico e meno tattico, intanto perché i rendimenti cambieranno e sono cambiati, c'è un cambiamento epocale, i pasti gratis che vivevamo sul conto corrente 10 anni fa sono praticamente scomparsi, siano negativi, e quindi il sogno dell'investitore di poter rinchiudersi sul conto corrente e dire adesso guadagno quella sufficienza che mi dà da vivere non c'è più. Bisogna spostarsi assolutamente con soluzioni di investimento per più periodi che diventano più lunghi, per poter sognare ancora attraverso i nostri risparmi. Allora, intanto Ferdi da Milano ci chiede se per favore possiamo ripetere il titolo del libro. Intanto Ferdi, solamente per questa richiesta, lo ha già praticamente in automatico, quindi lo invitiamo a scriverci il suo indirizzo a 2didenari@radio24.it e glielo mandiamo. Che dici, Mauro? Ma sicuramente. Ecco, comunque si chiama Dr. Money and Mr. Fear, il piccolo manuale dell'investitore. L'edizione, a pubblicarlo è l'edizione Simone, gruppo editoriale Simone, e l'autore è Antonio Avalli con le vignette di Guido Migliaro. Ottimo. Bene. Ci sono poi diversi ascoltatori che invece ci chiamano per intervenire in diretta. Che dici, Deborah? Ce la facciamo prima dei mercati? Sì, quelli... ci sono ben 4 minuti. Guarda, facciamo un sacco di cose in tutto. Allora scegli tu, guarda, tra Emilio, Flavio e Gigi. Ti faccio scegliere quale ascoltatore così ti preferisci. Allora, puoi andare in ordine alfabetico proprio. Cominciamo con Emilio. Va bene. Emilio, buongiorno. Centro Italia, sai, Perugia, sai che io sempre buongiorno. Un po'... Buongiorno, buongiorno Emilio, ci dica. Ascolti, ah, 2 o 3 domandine semplici, anche stupide se vogliamo, no, però, non c'è mai nulla. Per farmi capire. Allora, il Bitcoin, chi è che lo ha emesso per primo? Sì. E un'altra cosa, con cosa viene pagato? E sì. Se io investo magari 1000 euro e poi rivoglio questi 1000 euro, sì. Me le ridanno, se non me le ridanno... Mm-hmm. Dove vanno a finire? Bravo Emilio. Allora, ecco. Pierangelo, c'è una leggenda attorno a colui che per primo si è inventato di mettere in circolazione appunto il primo Bitcoin. A chi lo dobbiamo? Non sappiamo neanche se è stata svelata poi definitivamente, no, l'identità, non è, vero? Non è mai stato riconosciuto, è un anonimo che si è fatto chiamare Satoshi Nakamoto, che ha pubblicato nel 2008. Sicuramente diciamo, africano non è. Però chi lo sa? Però lo sa? Non sappiamo. Era stato cercato in Australia. A un certo punto sembrava che l'avessero preso in Australia, hanno detto è lui, poi è caduto nel vuoto. Ecco, lui ha fissato le regole. Non è che ha emesso il primo Bitcoin, ha fissato le regole di questo. Ovviamente c'è dietro un algoritmo, tanto per cambiare, che emette periodicamente. Esatto. Ogni 10 minuti esce un'unità di Bitcoin in rete, ci sono i minatori, i miners, che si occupano di andarli a cercare, e ovviamente con Bitcoin a $15,000 è molto conveniente, consumano un sacco di energia perché ci vuole grossa capacità di calcolo, ci vogliono dei programmi molto sofisticati per andarli a cercare, perché è sostanzialmente una striscia di codice da risolvere, e quindi bisogna mettere insieme dei computer, super computer o grossa capacità di calcolo, e quindi ha fissato le regole di questo sistema. Ha deciso che saranno 21 milioni di unità nel 2020. Uscirà. Ah, quindi un'offerta identificata è una valuta finita, è una risorsa finita, e si sa già, adesso siamo arrivati a 16. Quindi tra un po' diventerà merce di scambio pregiatissima, e allora per quello il prezzo volerà ancora più alle stelle. Per quello che appunto molti lo chiamano oro digitale, perché strumento di pagamento, essendo finito, a un certo punto diventa... Si esaurisce, merce rara, e quindi diventa appunto incredibile. Quindi poi ci sono tutte le teorie degli economisti e deflazionistico, perché aumentando così tanto fa cadere i prezzi, o è inflazionistico perché aumenta i prezzi, quindi c'è tutto un dibattito a livello economico. Però ecco, è stato lui che ha fissato le regole. Per quanto riguarda gli scambi, allora ci sono delle piattaforme più o meno, ci sono ormai abbastanza distribuite. All'inizio c'era MT Gox, che era una piattaforma giapponese che a un certo punto è stata chiusa perché è stata hackerata e sono scomparsi lì proprio tutti i Bitcoin che c'erano. Poi c'è Coinbase, Coinbase, c'è Bitfinex, Bitstamp, ce ne sono di vario genere. Banalmente si comprano delle porzioni, dei lotti, non so, o una valuta con la carta di credito, si lascia... Bisogna scaricare, poi dipende dalle varie piattaforme, bisogna scaricare un'applicazione. Io consiglio sempre di non utilizzare quelle piattaforme che sono centralizzate. Cioè chi mi chiede di registrarsi e tiene lui Bitcoin, succede come il caso sloveno di stamattina. Loro hanno una custodia dei Bitcoin dei clienti. Arriva un hacker, gli blocca il sito, si prende i Bitcoin e noi non li vediamo più. Poi ci sono delle responsabilità a seconda del paese dove sono. Se è americano ci sono delle responsabilità di restituzione. Però al momento, adesso devo andare in borsa, ma sempre per chiudere la considerazione dell'ascoltatore di Perugia, il mercato è al momento, mi sembra, abbastanza liquido. Mi raccontavano degli amici che hanno tentato appunto, anche proprio per sperimentare queste piattaforme, di fare delle compravendite e dei disinvestimenti. In realtà lo hanno fatto in tempi abbastanza rapidi. Al momento va tutto bene. È un mercato che solo su Bitcoin vale $13 miliardi di scambi al giorno, quindi abbastanza liquido. Poi dopo ci sono dei casi particolari. Bene, allora non t'avventurare, Mauro, fare che poi dopo devo... Io sto solo prendendo appunti, esatto. Sperando poi di capirli quando li rileggo, però intanto sentiamo come vanno i mercati, quelli abituali, diciamo, esatto. Così. Deborah, le borse. Per favore, mi dite in parole povere cos'è un bitcoin e se io avessi un bitcoin come faccio a cambiarlo in euro? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Due di denari. Sai che mercoledì i bitcoin hanno avuto un balzo in borsa? Vediamo la notizia su Sole 24 Ore. Bitcoin da 10-11 mila in poche ore. Allora Berlusconi cosa ha fatto? Ha creato la sua moneta. Te la faccio vedere, guardala qui, i Berluscoin. È in fase sperimentale, Eh vabbè, naturalmente tutti vogliono trarre vantaggio, no? Da questa bolla, possiamo definirla così, Mauro, tu cosa ne pensi? Non lo so, io devo dire prendo le distanze. Stavo guardando prima gli SMS e abbiamo degli ascoltatori, come dire, entusiasti della novità. Poi una cosa importante da sottolineare, il Bitcoin ha questa caratteristica, fa parte di questa disintermediazione, perché la disintermediazione è una cosa molto di moda, che ci piace, cioè ci permette abbreviare, accorciare i passaggi, farli addirittura saltare. Però quindi dall'esempio più semplice, non andare più in banca fisicamente ma fare tutto con home banking, diciamo la madre di tutte le disintermediazioni probabilmente di, è questa. Di tipo, sì, quella di tipo monetario, ma se vuoi anche la madre di tutte le disintermediazioni è anche a prendere le notizie sul social network e non comprare più il giornale, che purtroppo è una un cosa... Con un po' più di dispiacere questa, la dobbiamo sottolineare. Purtroppo stava proprio, era una cosa personale. No, ma ci sono invece anche quelli che ci scrivono dicendo ma guardate, questo è una cosa pericolosissima, bisogna intervenire, fare una legge, vietarli assolutamente. In realtà Pierangelo ci stava spiegando prima, oramai siamo anche prima di tutto ai futures sui bitcoin, perché saranno lanciati a Chicago. Ed è il tema che sta facendo schizzare le quotazioni di queste ore. E in quindi... qualche modo sì, perché comunque è, come dire... entra snobbato finora, entra nel salotto buono della finanza. Vedi. Uno però, potrà comprare titoli scommettendo su quale sarà l'andamento futuro del Bitcoin. La cosa anomala, siccome Bitcoin è uno strumento non regolamentato, allora le banche americane non possono comprarle, hanno qualche problema a comprarle. Allora i future sono fatti soltanto per contanti, non bisogna comprare Bitcoin per regolare. Per cui si può solo scommettere sul fatto che Bitcoin tra una settimana, tra un mese sarà a un certo livello, che sia più alto, più basso, e si paga la differenza. Quindi ma non abbiamo si deve, la non finanza si... derivata su un prodotto virtuale. Questo un prodotto virtuale, ormai è un'architettura che... Ripeto che ho le vertigini. Poi tu ci stavi spiegando che adesso c'è anche un giochino che va per la maggiore in rete, cioè, dei nell'ultima, gatti. Nell'ultima decina di giorni sta rischiando di bloccare la blockchain di Ethereum, che è la seconda criptovaluta. Che gli ascoltatori segnalano peraltro, Ethereum. Ethereum è che è interessante perché è quella che è la base degli smart contract, di cui si parla anche questo. Usiamo sempre termini inglesi, ma perché ovviamente però qui si possiamo intendere come contratti intelligenti, cioè contratti che si autoconcludono al verificarsi di determinate condizioni, si autoconcludono. Faccio un esempio: il registro immobiliare. Se io concludo una transazione immobiliare, automaticamente quel contratto viene registrato al catasto e con tutte le conseguenze. Quindi il passaggio di proprietà. E c'è senza bisogno di un certificatore che dice. Sì. I notai sono tanto contenti di tutto ciò. Detto questo, Antonio Avalli, insomma, noi qua avevamo anche l'obiettivo stamattina di ritornare alle basi dell'educazione finanziaria, ai rudimenti. Esatto. Detto questo, appunto, raccontiamo magari, prima di dare la parola di nuovo ai nostri ascoltatori che ormai si sono scatenati sul Bitcoin, ma ce lo immaginavamo, era anche abbastanza naturale, però raccontaci un po' chi sono Dottor Mani e Mr. Fear, un personaggio un po' più giovane, uno con, come dire, un profilo invece un po' più di persona matura, di esperienza. Chi sono questi due profili a confronto di cui tu racconti nel libro? Sono in effetti due figure che ho incontrato in giro, naturalmente. La media, soprattutto Mr. Fear, è la media degli atteggiamenti di quelli che in effetti hanno un comportamento più avverso all'investimento, al rischio. Quindi il risparmiatore più caotico, quello che se la piange, fa delle cose un po' errate, eccetera. Dottor Money invece è quello un po' più razionale, ponderato, che riesce anche ad accontentarsi di quello che fa e quindi ha un po' di equilibrio in più. Io di solito incontro più di Mr. Fear in giro che di Dr. Money, soltanto serviva anche una spalla per poter tenerli in effetti insieme nell'ambito di questo percorso, perché i due partono già dal fatto che naturalmente hanno dei risparmi e quindi hanno già generato delle piccole ricchezze, perché si parla anche di poco, quel poco deve essere valorizzato, certo, perché il messaggio, quantomeno conservato, ecco il monito che emerge di pagina in pagina è proprio il fatto che queste due persone devono scuotersi, perché il cambiamento è forte, non hanno la percezione di questo cambiamento, che un mercato non riesce più a darti dei rendimenti e salvare i tuoi risparmi, e quindi vivono innanzitutto il discorso del rischio, che è quello che è un po' fastidioso anche da affrontare, la parola rischio, no. La gente appena dice mi tocca il capitale e quindi io non voglio aver perdite in assoluto a quello che mi sta accadendo, e quindi pensare solo in pochi mesi di vedere un segno meno diventa un dramma per il risparmiatore medio, soprattutto italiano, che ha delle prospettive molto basse. Non so se tutti sono al corrente, ma anche i fondi, le famose SICAV, hanno una vita media molto bassa in Italia, siamo inferiori ai 18 mesi. Cioè l'investimento mantenuto da parte dei risparmiatori italiani in questi strumenti. Sì. E o switchano o passano ad un'altra soluzione o disinvestono. Non appena vedono che c'è una minima perdita, non mantengono l'investimento. Come possibilità empirica al massimo un anno, dopodiché valutano. Se così le cose però è più alto il rischio, scusami Antonio, di come fare esattamente il contrario, cioè comprare ai massimi e vendere ai minimi, che dovrebbe essere il invece il timing che... è il parametro che deve essere anche lì affrontato, perché è l'altro pericolo di scegliere i tempi giusti, perché l'effetto gregge ci porta molto spesso, quando le cose come il Bitcoin arriva ai massimi la compro, perché la comprano tutti, certo, perché se ne parla molto. Sappiamo che qualcuno in quel momento dice Buffett, ti sono preoccupato quando tutti comprano e compro quando tutti vendono, la famosa storiella, quando il mio barbiere mi parla di una certa azione è il momento di venderla, infatti perché se ne parla, si arriva ad una situazione di per comprato e quindi diventa più cara, un po' quello che sta accadendo su alcuni mercati dove pare che siano effettivamente oltre i propri limiti. Quindi questo è l'altro grosso pericolo, cioè di capire anche il quando farlo. Occorre farlo con strategie solide, perché l'altra cosa che insegnano i mercati, ma soprattutto quelli azionari, che più stai fermo e immobile, più riesci in effetti a guadagnare. Se soltanto si vuol guardare un indice, quello americano dell'S&P 500, negli ultimi 20 anni ha totalizzato circa l'8% all'anno, invece gli investitori hanno guadagnato meno del 2% sul mercato americano. Nell'ambito di quel orizzonte, proprio perché si tende a rivoluzionare e soprattutto a lasciarsi prendere l'emotività quelle strategie iniziali che possono, certo, avere degli obiettivi da tenere. Un po' di pazienza in più manca, questo è... Lo so, invece ce ne abbiamo molto poca, no, ma possiamo avere pazienza ancora un minuto e mezzo, Mauro, prima del tuo momento di gloria. Allora, non lo so se vogliamo chiamare in causa direttamente qualche ascoltatore. C'è Flavio, ad esempio, dalla provincia di Milano. Buongiorno Flavio, ci dica. Buongiorno, salve, no, sono Flavio di Modena. Ah, ecco, mi avevano informato. Beh, guarda, prego. Comincia con la M. Va bene. Allora, premetto che io non sono laureato in economia e commercio e in materie scientifiche e quant'altro, quindi io parlo da ascoltatore e da comunque da consumatore. Però avendo internet, ovviamente sì. Vai in giro e ti informi. Ok. Io vengo contattato spesso da queste aziende che comunque ti chiamano telefonicamente, i famosi trader online. Guardi, l'altro giorno hanno chiamato pure me, gli ho detto mi dica, sono una giornalista del Sole 24 Ore, questo mi è venuto l'infarto. Io di solito quando mi telefonano mi spaccio per il dottor tal dei tali, così smettono di chiamarmi. E alla fine di tutte le loro belle parole, alla fine si scopre che ti propongono il famoso Bitcoin. Allora io la settimana scorsa dissi con uno di questi operatori, dissi guardi che il Bitcoin, oltre che non essere comunque un bene controllato, ho detto, essendo un bene telematico, quindi virtuale tra virgolette, con i sistemi di hackeraggio che ci sono oggi nel 2017 e sono sempre più potenti, gli ho detto, secondo me è una valuta molto pericolosa da possedere. E lui mi disse, no signore, non si preoccupi, per questo accento albanese, ma perché sono cose molto controllate, eccetera. Gli ho detto io, no, gli ho detto, secondo me prima o poi a qualcuno glieli ruberanno e un po' la popolarità di questo Bitcoin inizierà a vacillare. Voi avete detto esattamente questa mattina, una ventina di minuti fa, che in Slovenia sono stati hackerati X bitcoin per il valore di tot milioni, eccetera. Quindi io a questo punto sono un guru della finanza in automatico o potere un ingenuo. Esatto, no, è una persona di estremo buonsenso. Sì, ci sembra, tra l'altro grazie. Ci ricordava proprio Pierangelo Soldavini, attenzione, se decidete di investire in bitcoin, perché siete liberi di farlo, ci mancherebbe altro, noi stiamo solo cercando di spiegare com'è il meccanismo e ricordandovi che insomma il rischio comunque di perdere il capitale può essere molto più elevato che non con altri strumenti di investimento. Però Pierangelo, ci ricordavi prima, bisogna non fidarsi di questi che strattengono per sé i bitcoin. No, pensavo che gli volessi fare la domanda, ma siamo veramente... Ah no, certo, invece è il mio momento, scusami, mi ero distratto. Così ci pensa alla risposta, così te la fa allora, anche più bella. Andiamo con la sigla. Anarchici come al solito. Allora regaliamo. Sembra la sigla di Gig Robo d'acciaio. Ma che quiz era questa? No, chi vuole essere milionario? Che cos'è? Chi vuole essere milionario, secondo me. Allora regaliamo il libro Dr. Money, Mr. Fear, sì, a chi ci chiamerà all'800240024. Risponderà esattamente a questa domanda: qual è il prodotto finanziario più diffuso in Italia? Bravo. L'abbiamo detto prima. E bravo. Adesso, signore e signori, traffico. Di denari. Ok, il prezzo è giusto. Allora, ma qual è il prezzo del bitcoin in questo momento, Pierangelo? Guardalo come smanetta. Dunque, siamo a 14.900 su una piattaforma, ma vedevo che su un'altra piattaforma era già 15.400, quindi possiamo fare arbitraggi, anche comprare da una parte e vendere dall'altra parte. Signori miei, state lontani, per carità del cielo. Intanto Mauro, volevo raccontarti che a Rovereto, se volessi farti la gita fuori porta, nel weekend, c'è il Mart, è stato aperto il primo negozio dedicato interamente alle criptovalute. Mauro dice: il negozio fisico, ma cosa vendi se sono valute digitali, se sono criptovalute, se di fisico non c'è niente? Beh, loro vendono gadget bitcoin in card di valore non superiore a 100 euro, che con la madre di tutte le criptovalute vicino appunto ai 15.000 euro non sono sicuramente che spiccioli, no? Però se tu vuoi il gadget con il bitcoin, magari con il Berlusconi sopra, loro ce l'hanno. No, tra l'altro gli abbiamo fatto pure ne questa approfitto pubblicità. Per dire una cosa: non è l'unica criptovaluta che è in circolazione, giusto Pierangelo? No, cioè, perché Ethereum, noi lo spieghiamo diciamo anche prima, nel nostro nuovo risparmio. Assolutamente no, sono 1.300 rotti. Sono esplose quest'anno con queste famigerate ICO, che sono diciamo delle forme di crowdfunding, per cui vengono emesse delle criptovalute per finanziare dei progetti. Che è una sigla ICO, che sta per l'offerta iniziale di criptovaluta, come l'offerta iniziale su l'IPO, esattamente come invece l'IPO. L'offerta iniziale di criptovaluta non sono regolamentate, tant'è vero che l'ESMA, la SEC e così sono intervenute per mettere in guardia dal fatto che sono a un mondo molto pericoloso e che ci sono delle regole anche per queste cose. Tra l'altro, allora, l'informazione su tutti questi argomenti è fondamentale. Volevo ritornare per un attimo, prima di sentire Alfonso da Milano, un ascoltatore, poi abbiamo anche Giuseppe della provincia di Bergamo che si candida invece a rispondere al domandone. Antonio, volevo chiederti, ma insomma nel tuo libro, il piccolo manuale dell'investitore dedicato a Dr. Money e Mr. Fear, dai anche qualche istruzione per potersi informare sulle questioni finanziarie in maniera corretta, perché oggi siamo sicuramente oberati di notizie, di possibilità di informarci su questi argomenti, e addirittura siamo, come dire, al paradosso contrario, no? Andando su internet troviamo di tutto, ma non troviamo magari mai il canale corretto per come dire, arrivare all'informazione che ci serve per magari trovare il consulente giusto o il prodotto di investimento che fa per noi. Che cosa possiamo dire a proposito di questo? Il libro, oltre che un veicolo di educazione, ha molto sulla parte informativa, quindi emergono nei capitoli delle informazioni che poi il lettore riesce, volendo con un po' di attenzione, a far suo. Naturalmente il veicolo più importante, visto che ormai investire è un lavoro, cioè certo, non si riesce a ridurre attraverso una notizia, andare su internet, e diventa molto molto più rischioso fare anche quel tipo di lettura di informazioni. Sì, il veicolo più importante è trovare una persona, c'è cioè l'identikit ideale del consulente che Bravo. Può fornire le informazioni. Che peraltro è anche il tema del prossimo numero del Nuovo del Risparmio. Giovedì prossimo, vero, giovedì prossimo sarà in edicola il terzo volume del Nuovo Risparmio, proprio sulla scelta del consulente. E questo è importante, perché anche qui abbiamo delle figure che sostituiranno nel tempo le banche, perché le banche non sono ancora attrezzate a fornire un'apertura alle scelte e alle soluzioni di investimento, lo stanno facendo, però la figura del consulente, che è ancora poco conosciuta, è quella che può aiutare, perché diventa un esperto, uno che conosce i mercati, sa cosa cucire sulle esigenze naturalmente del risparmiatore, che se ha tanto voglia di non rischiare bisogna trovare una soluzione che non gli dia le vibrazioni poi nel tempo di non stare in una stanza del rischio che non riesce a domare, a gestire, certo. Perché quella è la cosa che poi emerge. Però naturalmente il discorso di poter trovare qualcuno che se ne occupi, naturalmente condividendo molte cose, è importante anche per potersi distaccare, perché il rapporto col denaro è molto egoico, è molto forte, mm-hmm. ed a noi ci porta a fare delle forti irrazionalità. E questo filtro, e raggiungere questo filtro di qualitativo attraverso un consulente, ma anche una piattaforma adeguata, perché oggi si parla anche di piattaforma, che anche se il discorso asettico di lavorare ne parliamo anche nel volume in edicola oggi, taglia quella parte umana che fa la differenza. Questo è inevitabile. Se trovate il consulente più agitato di voi, distaccatevi, perché quello non vi fa bene. Quindi anche questa è una buona norma. Appunto. Abbiamo Giuseppe che vorrebbe rispondere al nostro domandone: qual è il prodotto finanziario più diffuso in Italia? Giuseppe, la risposta sua qual è? Titoli di Stato, obbligazioni. Mannaggia, purtroppo Giuseppe. Purtroppo non è così, Giuseppe, ci dispiace. Però allora, io quasi la mia gliela mando lo ma stesso. Ma sì, mandiamo lo stesso. Lo sa, mandiamo almeno, lo stesso, dottor Moni, Mr. Fira. E invece Paolo da Milano, un altro ascoltatore che vuole rispondere. Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Sì? Purtroppo è il conto corrente. Esatto. Purtroppo. Bravo. Perché Paolo? Perché lo dice con questo, questo cuore così affranto? Ma con un minimo di conoscenza finanziaria, chiaramente è lo strumento che dà i peggiori vantaggi. Ecco. E non è d'altronde uno strumento di investimento, esatto, lo devi tenere lì per la esatto. Però viene percepito come tale. Grazie Paolo. Adesso vuoi sentirlo? Alfonso, sentiamolo, perché volevo presentartelo più che altro, Deborah. Perché? Buongiorno Alfonso, adesso ti dico, sì, capisci perché. Buongiorno Alfonso, ci dica. Sì, no, li ho avuti, adesso non ce li ho più, naturalmente. Ah, accidenti. Non so se mi avete telefonato. No, perché mi hanno segnalato che lei ha avuto fino a 1000 bitcoin, e io dicevo a Deborah, ma guarda, questo signore è un uomo da sposare, insomma. Sì, però... sì. No, perché semplicemente perché ho cominciato a comprarli quando valevano $2, gli ultimi intorno. Allora, diciamo che lei ha fatto la cosa che dovrebbero fare dollari. Tutti, comprare sulla debolezza, poi insomma guadagnare un pochino e venire fuori da un investimento. Senta, senza essere... Sì. Posto che io esagerato. Non faccio le parti della Guardia di Finanza, ma a quanto li ha venduti? No, non li ho venduti, persi tutti. Ah, li ha persi? Sì, perché il sito su cui li avevo è fallito, è crearato e quindi ha dichiarato fallimento. Grazie quindi della sua testimonianza, allora ha maggior ragione. Allora. No, solo una cosa, cioè comprare in questo... Io, sicuri che adesso erano a 8-900 qualche mese fa, e stavo pensando di comprarli, ho detto no, sono saliti rispetto a 700, aspetto un po'. Stia quieto Alfonso, sono a 14.000. Allora, sono a 15.000 stamattina, sì, Alfonso, bisogna dobbiamo... capire che sono assolutamente imprevedibili e hanno dei crolli improvvisi, per esempio ho assistito al primo crollo da 200 a $5, ma due giorni fa ce n'è stato un altro da 11.000 a 9.500 nel giro di due ore, sì, per poi risalire. 10 secondi Pierangelo, stiamo terminando. Una raccomandazione finale, no, data l'esperienza di Alfonso. La raccomandazione è, in primo luogo, informarsi, capire che cosa si compra e non farlo perché appunto qualcun altro ti dice che si guadagna, punto e basta, e essere molto cauti, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Ormai ci sono anche degli strumenti dove tenere i wallet, perché tenerli sul computer rischiano di essere hackerati, bruciati, cioè presi da qualcuno. Esatto, per tutto il resto c'è il libro di Antonio Avalle, dottor Normani e Mr. Fear. Grazie per essere stati con noi, Mauro. Grazie ad Andrea Roccatella in regia. Domani siamo qua anche domani come i soldatini, come sempre. Buona giornata a tutti.